le notti magiche in cui ballano le lunghe gambe che hai, le minigonne che ti vestono, i movimenti che fai. Io non so più dove guardare ormai, le mani dappertutto metterei. Il sogno di poterti avere, sai, mi fa impazzire, dimmi un po' chi sei. Tu chi sei? Oh, ballano nel cielo anche le stelle, e sento la tua anima ribelle. Dentro di me che cosa c'è, ma cosa sei? Spiaggia piena di follia, lontano da casa mia, non sento neanche un po' la nostalgia se mi ritrovo con te. Ti andrebbe di ballare un po' con me, anche se sono un po' imbranato e non ho mai mosso un passo, prima o poi dovrò imparare, perché ti vorrei mia. Oh mia, oh, ballano nel cielo anche le stelle, e sento la tua anima ribelle. Dentro di me che cosa c'è, ma cosa sei? Oh, balla sopra me tutta la notte, balla fino a un passo dalla morte. Sotto di te io morirei, ti voglio sai. Dalla morte sotto di te io morirei, ti voglio sai.